Continuiamo a parlare di carcere, delle condizioni che si vivono. Se le rivolte dell'anno scorso avevano un attimo acceso i riflettori, poi questi si sono rapidamente spenti. Però qualche riflettore si è riacceso la settimana scorsa quando abbiamo appreso che 108 persone, 108 agenti probabilmente andranno a processo per le violenze, gli abusi, i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Noi ne parliamo con Valerio Guizzardi dell'associazione Papillon, che saluto. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. L'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere cosa ci dice? Ci dice che per la prima volta in Italia abbiamo a processo un numero molto alto di poliziotti della polizia penitenziaria, sono 108. I PM hanno dato tutte le imputazioni e adesso si andrà a processo, e lì in un regolare processo si vedrà quali sono le prove e come questo processo si svolgerà. È tutto da vedere, quindi non abbiamo precedenti, ripeto, non abbiamo precedenti di processi così grandi. L'esperienza dice che in processi così grandi se la cavano praticamente tutti, troveranno qualche capro espiatorio come al solito, condanneranno quelli e tutto passerà in cavalleria. Questa è l'esperienza normale in questo paese in tutti questi anni. Poi comunque non è detto, potrebbero esserci delle sorprese, ma la sensazione almeno nostra personale non, più o meno è questo. Comunque almeno quello che rimarrà nella storia, diciamo così, di questo paese è la mattanza, il macello che indubbiamente c'è stato. Ci sono i filmati, quelli non, ormai non si possono più cancellare, quindi questo rimarrà nella storia al di là di quello che decideranno i tribunali. E su questo che dobbiamo ragionare, perché in quella storia di mattanze, di disastri e soprattutto di morti, non dimentichiamolo mai, c'è la storia del carcere. Che la storia del carcere è esattamente questa, non sono altre. L'alto numero, appunto 108 persone a processo, fa venire meno anche la teoria delle poche mele marce. Ah, su questo non c'è dubbio, questo è un altro dato fondamentale, cioè la teoria della mela marcia nel cesto sano è la teoria di chi in qualche modo, avvelenando i pozzi, con queste espressioni un po' bizzarre, diciamo così, vista la situazione, diciamo, concorre o comunque vuole che nulla cambi, che tutto rimanga così, perché qui, come tutti sappiamo, almeno chi nel settore come noi vive il problema a carcere, sia dall'esterno che dall'interno, capisce benissimo che non è certo il problema la mela, è che la polizia penitenziaria istituzionalmente per dovere fa quello, non fa altro. Il carcere fa quello, non fa altro, perché è la sua missione istituzionale, la vendetta di Stato sul reo, la punizione, l'afflizione gratuita e la rappresaglia sociale e la stigmatizzazione. Il carcere nasce su questi presupposti, è la storia della nascita del carcere, non si può cambiare, il carcere lo si può soltanto abolire, non è emendabile, non è riformabile in nessun modo, perché la sua essenza è quella, è nato per quello, e quindi bisognerà prendercela a cuore questa cosa e prima o poi farcene una ragione. Il carcere deve essere abolito. Dopo la pandemia, le condizioni all'interno delle carceri italiane come sono? Sono ancora, come dire, critiche come durante il 2020 o qualcosa è migliorato? Da quello che è dato a vedere, sia dall'interno che dall'esterno, è migliorato, nel senso che sono ripresi i colloqui con i familiari in gran parte. Rimane il fatto che comunque il carcere, essendo per sua natura un ambiente chiuso, rende molto più facile la circolazione del virus, cioè lì le persone sono obbligate a rimanere nella stessa cella per la maggior parte della giornata, quindi no, le condizioni sostanzialmente non sono cambiate di tanto. Ecco, adesso il carcere è un po' più calmo, perché quella che è una questione fondamentale per qualsiasi detenuto o detenuta è avere il colloquio con la famiglia o comunque con i conoscenti o con chi comunque si ha un colloquio, perché quello è fondamentale per la propria sopravvivenza anche psicologica in qualche modo, e poi anche con gli avvocati, anche questa non è di secondaria importanza. Comunque sostanzialmente no, il carcere rispetto alla società rimane sempre molto molto indietro. rispetto a, soprattutto a questioni di ordine sanitario. Tu dicevi ora la situazione è un po' più tranquilla rispetto all'anno scorso, eppure ci sono sindacati di polizia, anche la funzione pubblica CGIL, che chiedono nuove dotazioni, addirittura si è parlato del taser. Sì, anche qua è un po' il discorso delle mele marce, no? Quello fanno, cioè il fatto che si chiamino SAP, altre sigle, o CGIL funzione pubblica, quello fanno, e quello chiedono. Cioè la CGIL non è diversa dagli altri sindacatini reazionari, corporativi della polizia penitenziaria, sono in quell'ambiente, quello fanno, quello chiedono. Quello che stupisce un po', ma non del tutto, visto gli elementi, è che il taser è stato chiesto anche da altri sindacati, però sono sindacatini, sono insignificanti. Cioè, la CGIL è la CGIL, lascia un po' perplessi questo fatto, non meraviglia, dico, però lascia un po' perplesso che un sindacato di questo tipo, che passa per progressista, si unisce alla richiesta tremendamente reazionaria, pericolosissima, di armare gli agenti della polizia penitenziaria di quello strumento di morte. Dovrebbero farsi un po' di conti all'interno magari e decidere tra di loro che razza di sindacato è quello, insomma. Certo, ecco, un'ultima domanda che ti faccio spesso quando ci sentiamo, però insomma sotto il profilo politico e dell'opinione pubblica, il superamento, l'abolizione del carcere rimane ancora un'utopia? Sì, rimane un'utopia, però come dice l'esperienza umana, inseguendo le utopie che si costruiscono percorsi, no? Percorsi di grandi cambiamenti, e quindi io penso che quell'utopia va inseguita, man mano sul percorso cercheremo di cambiare quello che si può, perché sarebbe, non so, estremistico dire il carcere non può essere cambiato, che è anche la verità, però intanto cominciamo a fare qualcosa. Poi sì, è anche un'utopia, una bella utopia. Diciamo che ci sono correnti di pensiero importanti in tutto il mondo sull'abolizionismo, insomma, anche questo non è un caso, cioè, non è soltanto piccoli sciocchi estremisti come noi che anelano a questo risultato, ci sono un fior di studiosi in tutto il mondo, c'è una corrente di pensiero nella criminologia critica che tende a questo e lo spiega scientificamente, ci si può dotare di una bella bibliografia perché i testi sono tanti, e sì, un'utopia, una bella utopia. Cominciamo a andargli dietro a questa utopia, cerchiamo di rincorrerla e molte cose probabilmente si risolveranno fino a un certo punto, perché poi il carcere è espressione di questa società che è governata dal modo capitalistico della produzione, quindi voglio dire, carcere lo abolisci se abolisci anche quello che ne è la causa, non soltanto gli effetti, insomma. Comunque quel discorso si fa molto lungo e sarebbe interessante magari una volta farci una trasmissione per avere un po' più di tempo a disposizione, però insomma un po' di cose le abbiamo dette, qualcuno questa mattina si sarà fatta una mezz'idea, insomma. Certo. Questo è già importante, non è poco. Io ti ringrazio. Io ringrazio te e tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato.